Non so se vi siate scandalizzati anche voi, apprendendo dai giornali di mercoledì scorso, mi sembra, che stando agli ultimi dati Istat, in Italia siamo giunti ai livelli storicamente più alti del rapporto tra profitti e valore aggiunto, che ho appreso per l'occasione è l'indice che misura la redditività lorda delle imprese, come a dire all'ingrosso i loro guadagni. La notizia in sé non è particolarmente scandalosa, anzi, ma può diventarlo se si riflette sul fatto che questa invidiabile performance è dovuta a quanto pare non tanto a un'eccellenza produttiva dell'industria nazionale, quanto alla debolezza della lira che ha permesso alle imprese di beneficiare dell'andamento dell'export, alla simpatica circostanza che nel nostro paese il costo del lavoro è molto contenuto e in alcuni frangenti addirittura calante, dice l'Istat, e a una politica dei prezzi che non sembra in particolare sintonia con la moderazione che regola la politica dei salari. È tutto un insieme di fattori che nel 94 hanno permesso di aumentare la redditività dal 37,8% al 44%, mentre il costo per unità di prodotto non aumentava più dello 0,4%, e nei primi tre mesi del 95 a portarla addirittura al 47,8%, che rappresenta appunto il record storico di qui sopra. In sostanza, a quanto mi è sembrato di capire, le imprese hanno aumentato i loro guadagni perché di fronte a un aumento dei costi di produzione assai contenuti, se non quasi irrisorio, si sono affrettate, non appena la congiuntura lo ha reso possibile, ad alzare prezzi e tariffe. E visto che l'aumento dei prezzi e delle tariffe scatena l'inflazione e che i salari, per i noti motivi, non sono più in grado di recuperare sull'inflazione medesima, è evidente che il processo non significa altro che un ulteriore trasferimento di ricchezze dalle tasche dei lavoratori a quelle degli imprenditori, che poi in sostanza sono quelli che una volta si chiamavano, con un termine magari un po' rozzo ma sicuramente espressivo, i padroni. Ecco, il dottor Enrico Giovannini, che è responsabile del Dipartimento Contabilità e Analisi Economica dell'Istat, non ha mancato di affermare che la sua organizzazione non fornisce previsioni e non esprime giudizi, ma ci ha garantito lo stesso che il peggio è passato, chissà perché, e che l'arresto congiunturale dei prezzi alla produzione in ottobre e novembre si rifletterà inevitabilmente sull'inflazione nei prossimi mesi. E lo speriamo bene, anche se l'affermazione è in contrasto con l'analisi di qui sopra, stando alla quale il rapporto tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo non è proprio così lineare. Quanto ai giudizi, ciascuno si è sentito libero di esprimere i suoi, e le imprese sono state bacchettate a dovere. Il Corriere della Sera, ricordando un'analoga presa di posizione del governatore della Banca d'Italia, ha scritto senza mezzi termini che le imprese hanno badato più ai loro guadagni che all'andamento dell'inflazione. L'Unità ha intitolato il suo pezzo Le colpe delle imprese. Persino il senatore Agnelli, interpellato a Bruxelles cosa ci stava a fare, ha dichiarato che il nemico numero uno è l'inflazione. Ed è vero che quando gli hanno chiesto se gli industriali avevano capito che la politica dei redditi include anche i profitti di impresa, ha risposto: sì, credo che lo abbiano compreso, ma non è detto che siano d'accordo. Ma insomma, da voi non possiamo aspettarci molto altro. E allora siamo d'accordo tutti, almeno per una volta. Siamo d'accordo tutti, tranne che per un particolare minimo, talmente minimo che mi vergogno persino a sottolinearlo. Vedete? Io a scandalizzarmi per le colpe delle imprese, per quanto ci abbia sinceramente provato, non ci sono riuscito. Che le imprese abbiano pensato soprattutto ai propri profitti, incuranti del benessere generale del paese, mi sembra assolutamente normale. In fondo, incamerare quanto più profitto è possibile è il loro obiettivo istituzionale, non è quello di occuparsi del benessere di tutti. È vero che c'è chi è convinto che questi due fini possano in un qualche modo coesistere, o pensa che debbano coesistere, o addirittura è sicurissimo che coincidono, ma il punto è proprio questo. Le imprese sono un soggetto sociale tra altri soggetti sociali, e non è scritto proprio da nessuna parte, tranne che nella volontà di sopraffazione che storicamente caratterizza la classe imprenditoriale, che i loro interessi si identifichino con quelli generali. Non vorrei essere considerato una specie di relitto dei secoli bui, aggrappato come una tellina allo scoglio a una visione del mondo sorpassata, ma porca loca, non pensate anche voi che il compito di occuparsi del benessere di tutti, che significa proteggere i deboli dalle pretese dei forti, no? E dovrebbe aspettare a qualcun altro che non siano i forti in questione. Il guaio il guaio, e concludo, è che a quanto sembra questo compito oggi non interessa proprio a nessuno. Tutti adorano il mercato, tutti considerano perso il giorno in cui non hanno avuto occasione di affermare la propria fede nel liberismo, e soprattutto credono tutti fermissimamente nell'economia, attribuendo alle sue leggi, alle sue pretese leggi, un'oggettività e un'ineluttabilità che oramai non si riconosce più nemmeno a quelle della fisica. E tutti evidentemente sono convinti che il sistema economico in cui viviamo sia il migliore dei sistemi possibili, anzi sia l'unico sistema possibile. Quando salta fuori una contraddizione qualsiasi, quando si scopre che nonostante tutto i profitti dei ricchi non vanno a beneficio di altri che dei ricchi stessi, la si può sempre sanare ricorrendo a una categoria morale, colpa, che con le leggi dell'economia ha proprio poco a che fare. Forse la sinistra, invece di denunciare le colpe di chi fa soltanto il suo mestiere, potrebbe più utilmente riflettere sulla sua clamorosa incapacità di fare il proprio.